torniamo in studio, diretta Radio Città Fujiko dagli studi di Via Zanardi. Gli altri suoni che mi hanno portato un attimo anche a essere distratto, perché abbiamo una band, sì, è il caso di dirlo, che dagli Stati Uniti ha portato grandissima diffusione dalla fine degli anni Ottanta, la loro unione, fino ad arrivare nella sperimentazione che ha avuto l'esplosione con la denominazione, anche se di recinti è molto difficile parlare, soprattutto quando abbiamo queste realtà, ma si parla di post rock, musica elettronica, fusion, jazz ed ambient. Loro rispondono a nome di Tortoise, è scritto Tortoise, penso si pronunci in questo modo. Come ho detto, nacquero verso la fine degli anni 80 per iniziativa di un bassista, Doug McCombs, il musicista che poi ha portato nella ritmica grande innovazione è stato John McEntire. La Thrill Jockey, label di cui magari faremo anche approfondimento, è quella che ha dato più diffusione. Il disco secondo me è più bello è TNT, un disco molto particolare, nello stesso modo anche accattivante, con una parte leggibile non indifferente. Quindi dopo questa breve sigla The Silver Circle di Gian Jalinek, direi di iniziare questa mini selezione con i Tortoise, ripresa da un cofanetto. Non ho portato io, ho diversi dischi dei Tortoise che poi io continuo a chiamare Tortoise, questo ogni tanto prenderò questo refuso, ma per darne antologia allo stesso modo ho deciso di proporre qualche inedito e anche qualche lavoro in collaborazione con altri produttori importanti. Il disco che troviamo è un quadruplo ed è edito dalla Thrill Jockey, come già vi ho detto in precedenza. Questo titolo non è molto rassicurante vista la stagione, anche se purtroppo già qualche nuvola sta oscurando il cielo, di questo però ne siamo avvezzi in questa strana meteorologia. Il brano dei Tortoise si chiama Autumn Sweater. A tra poco. Thank you. presenza costante in questo brano di un dub misurato, dolce, l'ambient che dà un tappeto sonoro assolutamente accompagnato dall'imprevedibile, musica fatta da autori veramente completi, non manca assolutamente la formazione jazzistica per loro, la ritmica è importante, non a caso Doug McCombs, John McEntire rispettivamente al basso e alla batteria. Questo disco a Lazarus Taxon è un quadruplo che è un'antologia ripresa un po' da alcuni loro lavori inediti, alcuni lavori rimaneggiati da collaborazioni come ad esempio Nobekatsu Takemura, di cui più volte vi ho parlato e portato alcuni brani. Questa copertina bellissima in bianco nero che si addice fra l'altro anche alla meteorologia odierna, da complemento alle micro sensazioni musicali. Procediamo, questo è un altro lavoro che ho messo assieme al primo brano in questa mini playlist, Madison Area, sempre ripreso da A Lazarus Taxon. Loro sono i Tortoise. In bossa estemporanea è assolutamente un valore aggiunto al fascino delle sonorità. Musicisti completi, li ho visti dal vivo a un'edizione di Ferrara sotto le stelle, incantevoli, tecnicamente ineccepibili. Playlist che ha cercato di racchiudere tutte le loro sensazioni fino ad arrivare a quella più tradizionale del post rock. Questo è il tipico brano post rock. Sono stati la band sono la band che decisamente ha portato queste sonorità a grande diffusione. Loro sono molto conosciuti, fra l'altro, dalla Thrill Jockey Tortoise alla Thrustur Taxun, questo disco, anzi quadruplo, che secondo me è bellissimo, è stato protagonista per la puntata odierna di Altri Suoni, che tornerà domani sempre da tramite tra il GRD Radio Popolare e la rubrica. Visto che siamo in musica, partiremo anche dai magazine con un approfondimento musicale. Quindi a tra poco, dopo la pubblicità, si continua la colazione in diretta, il Breakfast Club. A tra poco.